Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Elvio Bonotto. La grappa a Padova da oltre 100 anni. Di Anna Marino. Per chi è nato in un'azienda che fa grappa da 4 generazioni, la grappa è prima di tutto una passione e ce l'abbiamo nel sangue. E ogni grappa è diversa dall'altra, per cui è un'esperienza che si rinnova di volta in volta. Noi la degustiamo alle 10 della mattina, perché il nostro apparato sensoriale è nelle condizioni migliori per riuscire ad apprezzarle e a capirne le sfumature. Però normalmente nasce per tradizione come un prodotto post cena, quindi sostanzialmente come un momento di convivialità in cui ci si scambiano opinioni mentre si degusta, si assaggia, si cerca di capire cosa c'è dentro questo goccetto di prodotto. Assaggiare la grappa è fondamentale, secondo Elvio Bonotto, quarta generazione della famiglia che dal 1908 la distilla a Padova. Nella produzione della grappa le innovazioni tecnologiche sono importanti, ma la qualità dipende sempre dal maestro distillatore e solo il maestro assaggiatore la riconosce, dato che la materia prima è variabile. Elvio Bonotto è responsabile comunicazione delle distillerie Bonotto Umberto. L'azienda, oggi come 100 anni fa saldamente in mano alla famiglia, è localizzata nella provincia di Padova con due stabilimenti, la distilleria di Conselve e la sede di Mestrino, con una capacità produttiva di circa 5,5 milioni di bottiglie prodotte ogni anno. L'export rappresenta il 20% circa del fatturato e vede come principali paesi di esportazione Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Canada e Stati Uniti. Con centinaia di anni di esperienza alle spalle, Elvio Bonotto dà alcuni consigli per la degustazione della grappa. Ci sono dei bicchieri appositi, dei calici, dove le dimensioni sono importanti. E quando pensiamo alla grappa, pensiamo normalmente a un bicchiere di tipo tulipano, all'interno della quale si versa una quantità di grappa moderata, giusto per andare proprio a livello empirico, le famose due dita, per capirci dal lato pratico, che consentono di dare la possibilità al distillato di esprimere la propria personalità. Fondamentale da questo punto di vista è la temperatura, dove la temperatura va dai 15 ai 17-18 gradi, quindi quando si parla di temperatura ambiente bisogna sempre capire di che ambiente si vuol parlare, perché ovviamente se pensiamo a un agosto con temperature molto elevate probabilmente ha senso tenerla in frigorifero e tirarla fuori qualche momento prima della degustazione, in modo poi da raggiungere queste temperature che sono, diciamo, le condizioni ottimali per poter esprimere quelle che sono le caratteristiche proprio aromatiche, e quindi le sostanze volatili riescono ad evaporare e ad arrivare alla nostra mucosa olfattiva, quindi al naso, dove abbiamo il primo punto, la prima fase della degustazione. Bicchiere a forma di tulipano e calici di tipo balloon. Il maestro assaggiatore ha la capacità di valutare la grappa con la vista, con l'olfatto e con il gusto. E anche qui Elvio Bonotto, maestro assaggiatore per esperienza, dà consigli validi per tutti. Prima di tutto il caffè bisogna che non ci sia. Sfatiamo un mito, ma se si vuole capire appieno la grappa, prima la grappa e poi il caffè. Quindi dal punto di vista pratico, la prima valutazione che si fa quando ci riuniamo insieme intorno al tavolo è quella di verificare, al di là dell'aspetto di tipo visivo, che è la prima cosa che spontaneamente si nota, che normalmente nel caso delle grappe giovani c'è trasparenza piena, nel caso delle grappe invecchiate ci sono delle tonalità che vanno dal paglierino all'ambrato, quindi questo è, diciamo, è l'ordine di grandezza visiva. Nel passato questa fase si va direttamente al naso, e qui è la cosa più importante, perché deve essere fatta con estrema attenzione, nel senso che il bicchiere va portato lentamente e avvicinato al naso, mantenendo comunque una distanza di 3-4 centimetri, in modo tale da riuscire a gradualmente a comprendere quello che viene dal punto di vista proprio delle sensazioni aromatiche, quindi quello che evapora dal bicchiere, perché in questa fase si capisce quanto è ampio il carattere della grappa. La vivacità e l'ampiezza aromatica è il primo elemento che contraddistingue la grappa rispetto a tutti gli altri distillati. E a questa fase, diciamo, di valutazione olfattiva segue la fase di degustazione vera e propria, cioè quando il prodotto viene portato alla bocca. Perciò certe sostanze che prima al naso non si sentivano tornano. moderne tecnologie per ottenere la grappa purissima. L'ultima innovazione è la doppia distillazione. Nella prima distillazione avviene generalmente la separazione delle componenti di testa e di coda per estrarre il cuore, ovvero la grappa. Il processo produttivo, secondo quanto previsto dal disciplinare, potrebbe dirsi concluso. I maestri distillatori intervengono per ripetere il processo. Un secondo filtro. La grappa insegna ad affinare sempre di più i processi, ma soprattutto insegna che non si butta via niente. Elvio Bonollo spiega il riciclo continuo di una destilleria ecologica. Si sostanzia nel cercare di valorizzare al meglio, di utilizzare nel migliore dei modi quello che la natura ci mette a disposizione. La vinaccia che noi andiamo a prendere freschissima in cantina ha già dato il vino, quindi ha già dato il proprio frutto, ma ha ancora tantissimo da dare attraverso la distillazione, perché si riesce a creare un capolavoro sfruttando e cercando di estrarre nel miglior modo possibile quelle che sono le componenti presenti nella buccia e nel seme dell'uva per farla grassa. Ma da qui poi noi riusciamo, una volta estratta la componente aromatica, la componente alcolica, riusciamo a seccare questa vinaccia e a separare poi la buccia dal seme. La buccia, che è sostanzialmente cellulosa, viene utilizzata per produrre il vapore per distillare, quindi non usiamo combustibili fossili. Il vinacciolo invece viene utilizzato per produrre l'olio di semi di vinacciolo, che è un olio alimentare dietetico che ha caratteristiche particolarissime. E poi anche tutta la parte, diciamo, degli ulteriori residui della distillazione, quindi che hanno un certo tipo di carica organica, vengono sottoposti a digestione anaerobica e aerobica in modo da abbatterla al massimo e da ottenere biogas che viene trasformato in corrente elettrica che ci serve per alimentare il nostro processo produttivo e che ci consente anche di sostenere e compensare in parte le ingenti spese legate all'attività di filtrazione dei fumi della caldaia, come se noi bruciassimo la nostra legna in casa e la cenere non deve andare nell'ambiente. E come nell'economia circolare, tutto ritorna. Come alcune frasi che per Elvio Bonollo e per la sua famiglia ricorrono nella vita e nel lavoro. Un'espressione di mio nonno che diceva a me, a mio fratello, va a vedere il carro che arriva. L'attenzione a verificare la qualità della materia prima, la freschezza della vinaccia, è il punto di partenza per tutto quel che viene dopo. Attenti a guardarvi sempre fin dall'inizio in quel che state facendo e non dar niente per scontato in una logica di miglioramento. E quindi ecco il discorso di precorrere i tempi senza mai dimenticarsi del passato. E dopo la storia dell'arte, della distillazione e delle innovazioni della grappa a Bonollo, quella di Devan, una PMI che da 3 generazioni cura l'arte del bijou, delle borse e degli accessori. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando Erika Devan aprì il primo negozio nel centro di Torino, era il 1955. Il lavoro di sperimentazione è instancabile, ma soprattutto c'è un segreto che ha portato l'azienda anche all'estero, attraversando ogni momento di crisi sulla sua strada, come spiega Elisabetta Devan. Sicuramente il fatto di avere una solidità economica nostra a livello aziendale e di avere comunque una rete di collaboratori, tra cui anche 170 artigiani, che ci hanno permesso di studiare e di realizzare i prodotti seguendo anche appunto le mode, però riuscendo a contenere i costi. Di conseguenza noi quello che appunto soprannominiamo il prodotto, il lusso accessibile, è uno dei nostri punti di forza che sicuramente ha dato grossi successi negli anni proprio di crisi. Certo, quindi praticamente il vostro segreto è questo concetto del lusso accessibile e voi avete anche un particolare modo, un particolare approccio per quanto riguarda i bijou e i gioielli per ricercare la materia prima, no? Sì, allora noi appunto come dicevo collaboriamo con tanti artigiani, abbiamo delle idee che ci vengono ispirate magari anche dal mondo dell'arte piuttosto dai viaggi che facciamo. Nel momento in cui decidiamo di realizzare un bijou nuovo, una collezione nuova, se non esiste il materiale adeguato a livello sia di qualità sia anche a livello estetico, negli anni è successo che siamo riusciti a crearlo e anche a brevettarlo, come è successo su delle placcature oro piuttosto che sulle perle di sintesi e le perle iride. Quindi praticamente inventate la materia prima che non c'è, ma soprattutto il risultato è un risultato che non solo è accessibile ma è anche estetico. 60 anni di storia e molte persone appunto che lavorano nella ricerca di questi materiali, nell'artigianalità. Chi vi ha aiutato in tutti questi anni? Quali sono state le svolte fondamentali? Ma allora, 60 anni di attività presuppongono ovviamente il vedere tanti passaggi anche a livello economico, di mercato e anche di gusti. Noi siamo stati sempre molto attenti a seguire anche quelle che erano le richieste dei clienti, perché poi sono loro i primi indicatori delle mode che cambiano.